voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Gli accessori per la nautica che fanno il giro del mondo, di Andrea Ferro. Questa è la storia di un'azienda sbocciata sul mare, è una trama di vita e di lavoro che sa di salmastro, di ingegno e di passione. È la storia di Quick, un marchio noto nel settore degli accessori per la nautica, 30 milioni di fatturato nel 2016. A fondarla a Ravenna, due tecnici di bordo, diventati amici e poi soci, Alfonso Peduto e Michele Marzucco. Quest'ultimo è presidente e amministratore delegato di Quick. Così ci racconta l'inizio della storia della loro impresa. Io e il mio socio già dall'82 lavoravamo insieme come dipendenti e dopo 6 mesi abbiamo deciso col gennaio 83 metterci insieme e fare quello che avevamo cominciato a imparare a fare, che erano poi i tecnici di bordo di elettronica navale, che abbiamo fatto insieme una crescita professionale nei cantieri della nostra zona, la zona della Romagna, quindi i cantieri storici di quel della nostra zona, che sono stati per noi una grandissima scuola, una formazione importantissima, e ci hanno fatto vedere tutto quello che si poteva conoscere e imparare. Teniamo conto che nell'83 io avevo 22 anni, quindi siamo partiti in società, io e il mio socio che ha un anno più di me, Alfonso Peduto, e facendo i tecnici di bordo, quindi elettronica navale, riparazione, tutto quanto. Nel 92, l'ennesima crisi, la nostra società che si chiamava PM Marina aveva dipendenti ed erano bravi ragazzi che lasciare a casa sembrava proprio un delitto per noi, e abbiamo deciso di iniziare l'attività della Quick, che a differenza della PM era invece un'azienda di progettazione e produzione di accessori nautici. Sin dal 1992 la Quick produce caricabatterie, radiocomandi, pulsantiere, tutti accessori concepiti per essere montati sul salpa-ancore. È uno strumento fondamentale per una barca e diventa la produzione particolare nella quale Quick si specializza, orientando investimenti e idee. È insomma la chiave di volta che lancia l'azienda, la trasforma, la rafforza. Piano piano siamo stati invogliati dal mercato a cominciare a produrre noi il salpa-ancore, che è stato il primo prodotto che ha creato un po' un cambiamento. Il salpa-ancore è un vericello, un motore elettrico che serve di ausilio per poter tirare su e giù l'ancora tramite una catena, e quindi serve per ancorare l'imbarcazione al fondale. Noi ci specializziamo inizialmente nell'accessorio per far funzionare il salpa-ancore, tutto quello che non era il salpa-ancore. In un secondo tempo abbiamo cominciato a produrre il salpa-ancore stesso, e non potevamo immaginare che il mercato stesse aspettando noi. Uso un termine forte, nel senso che non credevamo potesse essere così veloce la crescita e l'aumento di produzione di questo prodotto. Abbiamo cominciato subito a fare sia la vendita in Europa, sia la vendita in Italia, sia la vendita in Europa, e quindi è sempre stato un crescendo. La gamma dei prodotti di Quick cresce in fretta. Il successo del salpa-ancore non esaurisce la carica imprenditoriale, piuttosto la spinge verso nuovi traguardi. Da Ravenna, da imprenditori del mare, sostenuti dalla passione per l'elettronica, Alfonso Peduto e Michele Marzucco guardano l'orizzonte con rinnovato coraggio. La prospettiva è inseguire nuove rotte, come racconta ancora Michele Marzucco. Abbiamo comprato aziende che erano un po' in difficoltà, abbiamo imparato, abbiamo raccolto il know-how che queste aziende avevano, per poi generalmente modificando tutto quello che avevamo comprato secondo il nostro modo di vedere, perché poi sostanzialmente il mio socio eravamo e ancora siamo due tecnici di bordo, chiamiamoli elettrauti evoluti, e quindi il nostro modo di vedere un oggetto, qualunque esso fosse, era diverso da come lo andavamo a trovare sul mercato. Quello che compravamo sul mercato era la tecnologia che questa azienda poteva avere, il parco dei clienti, e su questi andare a lavorare e offrire ai nostri clienti sempre una gamma maggiore di prodotti che potevano utilizzare col brand della Quick. Il settore degli accessori per la nautica figura tra le eccellenze di un comparto che ha saputo affrontare i venti ostili della crisi e che ora, uscito dalla tempesta, guarda al mondo con più fiducia. È un'altra chiara espressione di una originalità tipica ed è una testimonianza del Made in Italy. Se parliamo di accessori della nautica, parliamo di Italia, rimaniamo comunque, secondo me, un'eccellenza a livello mondiale. Anche dopo la crisi che c'è stata del 2008, l'Italia è comunque sempre ancora riconosciuta per design innanzitutto e poi comunque anche per tecnologia un prodotto di buona qualità, di medio-alta qualità. Salva ancore e accessori con il marchio della Quick hanno iniziato in fretta a fare il giro del mondo. L'azienda di Ravenna oggi esporta in 60 paesi e ha aperto anche negli Stati Uniti. Abbiamo un'azienda in America, la Quick America, che abbiamo aperto nel 2006 proprio perché sentivamo la necessità di essere più presenti sul mercato americano. Abbiamo un export che è quasi più dell'85% del nostro fatturato. Teniamo conto che è un'azienda che impiega circa 180 persone con un volume di gruppo di fatturato che quest'anno dovrebbe arrivare intorno ai 37-38 milioni di fatturato. Il cielo sopra la nautica, come si diceva, è tornato sereno e un sole sempre più convincente scalda l'ottimismo da parte di chi, comunque, ha sempre guardato il futuro con fiducia, contando sulla forza del lavoro. Nel 2016 la crescita del fatturato del comparto è stata del 18,6%, oltre le previsioni. E anche il 2017 promette molto bene. Vola l'export e sorprende la domanda interna, che continua a crescere con significative ricadute sull'occupazione. Questa atmosfera si riflette sul Salone Nautico di Genova, giunto alla 57esima edizione. Una grande festa del mare nel segno della riscossa. La nautica a livello mondiale era già ripartita, è già ripartita. A livello nazionale sta ripartendo bene. Più lentamente rispetto ad altri paesi, però sta ripartendo bene, il buon umore c'è, io vedo solo in positivo il mercato per gli operatori italiani, ma mondiali in generale. Le fiere che si stanno facendo stanno dando segnali molto positivi. Si è appena chiusa Cannes, i cantieri hanno venduto barche, se i cantieri vendono barche noi vendiamo accessori. La Buriana è passata, sì, direi si può dire di sì. Per quanto mi riguarda, per la nostra azienda è stato un po' diverso. Noi avevamo una società di diritto americana, già vedevamo uno spaccato diverso da chi vive una realtà locale. Per cui quando è successo il 2009 la crisi, per noi non è stata, io ho cercato di trasmettere ai miei uomini che questa non era una crisi, questa era un riposizionamento del mercato, facendo un salto indietro di 5 anni, e di lì dobbiamo ricominciare con l'esperienza che avevamo a rifare quello che, e facendo in maniera diversa quello che avevamo fatto negli anni prima, e facendo così noi siamo usciti velocemente da questa situazione. Le difficoltà erano e sono tutt'oggi altissime, i concorrenti sono agguerriti, sono bravi, fanno cose sempre migliori, il mercato è migliorato tantissimo ed è molto più stimolante, molto più interessante. Ha dormito un po' di anni, ma adesso si è svegliato e sta correndo bene. È bello lavorare, ci sono stimoli enormi, nuove possibilità, nuove opportunità. Per me è tutto, vedo il futuro per le aziende italiane che hanno voglia di fare assolutamente in modo positivo. Marzucco Michele, titolare, presidente e amministratore Alfonso Peduto. Questa e altre storie, in anteprima, inedite o in versione estesa, ma anche idee e novità per l'impresa, potete trovarle sul sito radio24.it, cliccando sulla pagina programma Voci di Impresa. E curiosando nella sezione Extra, a cura di Anna Marino, potete scrivere i vostri messaggi e le vostre storie. Voci di Impresa è anche Voci di Piccola Impresa. Su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa. A domenica prossima!